Oggi in chiesa stiamo celebrando la solennità di tutti i santi e io vorrei parlarvene partendo da una mia piccola testimonianza, esperienza che ho vissuto ieri sera. Nel mio studio stavo recitando il Santo Rosario e a me piace stare concentrato guardando anche delle immagini. E arrivato al quarto mistero glorioso, stavo recitando la quarta decina mentre avevo sotto gli occhi una bella riproduzione dell'Assunta del Tiziano in Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia. E mentre recitavo questa decina mi è venuto spontaneo rivolgermi a questa riproduzione, a Maria, e dire: come sei bella, perché è veramente un quadro straordinario che esprime una bellezza intrinseca. E poi vedere Maria in questo slancio di saluta, di salita al cielo, è uno slancio trattenuto perché ha le braccia incrociate sul petto, in mezzo agli angeli che la sorreggono e davanti alle persone che nella parte inferiore del quadro la ammirano. Come sei bella. E subito il mio pensiero è andato al paradiso. Ho detto: sarà pur bello andare in paradiso con te, con Gesù. E poi, senza accorgermi, sposto lo sguardo di mezzo metro e lì sulla mia scrivania c'è la foto di mio cognato che è morto neanche da 2 anni. Eravamo tutti e due, lui molto più di me, grandi appassionati di montagna. E lui è raffigurato in questa foto, che è stata scelta come ricordo funebre, è raffigurato su tra le montagne della Valmalenco, tra i monti da 3-4 mila metri, seduto in una cima, su una cima, sotto una croce. E mi è venuto spontaneo guardarli entrambi e dire: ecco, questa è la festa che celebriamo di tutti i santi e di tutti i defunti. Perché ognuno dei nostri, ma dico dei nostri, quelli di casa nostra, quelli del nostro sangue, sono destinati anche loro al paradiso. Noi, fra non molti anni, saremo destinati al paradiso in compagnia dei santi, in compagnia di Maria Santissima. E mi ha preso un impeto di commozione sia a guardare la Madonna sia a guardare le montagne e dire: ogni ideale, per me soprattutto la montagna, ma ogni ideale ti porta su. E ho immaginato cosa sia la musica per un esperto di musica, per un appassionato di musica, cosa sia la pittura per un artista, cosa sia ogni opera d'arte, cosa sia ogni ideale per colui che ne è afferrato. Non sei tu che afferri l'ideale, è l'ideale che afferra te e ti porta su. Cari amici, la stessa cosa può capitare a livello spirituale. Capita per le persone che sono capaci di vivere una loro vita pienamente umana e pienamente soprannaturale. Ma come si fa, mi dice tante volte qualcuno, a pregare? Alcune volte ho uno slancio fortissimo, altre volte non sento Dio, non so cosa dire. È per questo che le nostre chiese in settimana sono sempre vuote. Non perché la gente non abbia tempo, perché la gente ha tempo di girare, di stare in giro a chiacchierare sugli angoli delle strade, ha tempo di passare ore nei supermercati non necessariamente per bisogno. La gente ha tempo e tantissimo. La gente non ha il gusto della preghiera. E alcune volte mi dice: non so che cosa dire al Signore, tranne quando ho bisogno, allora corro, e tranne quando mi sento colpevole di un grosso litigio, di un grosso sbaglio, e allora sento il desiderio di andare a chiedere perdono a Dio. Ma lo stare a guardare il Signore, a contemplare Dio, come tu staresti in mezzo a una corona di montagne, come tu staresti seduto al Louvre o a Brera, o seduto su una seggiolina a guardare questi capolavori, questo difficilmente lo facciamo. Allora io vorrei insegnarvi una strada, ve l'ho già detta altre volte, ma anche a scuola gli insegnanti ripetono le cose. La liturgia, amici, la liturgia, comprendente tutto, comprendente anche i canti, comprendente le letture, le orazioni, il prefazio. E io dopo questo rosario ho sentito il desiderio di prendere in mano la messa di oggi, perché mi sono detto: cosa vado a dire alla mia gente che è giù ad aspettare una parola? Ho fatto questa preghiera allo Spirito Santo. O Spirito Santo, tu vuoi parlare a quelli là che sono giù ad aspettarti, però mandi me. Allora, se per favore tu, Spirito Santo, mi suggerisci quello che tu diresti loro, beh, ti faccio io da portavoce. Ed è stato così che ho scoperto straordinario il prefazio di oggi. Io mi ci sono fermato su a lungo, con voi non posso, lo lascio a voi. Portate a casa il foglietto della messa, tanto lo sapete bene che noi non lo ricicliamo. Diverse persone di tutte le età, dopo la pandemia, non vengono più in chiesa perché dicono: ma devo andare, c'è il rischio. Fratello, il rischio c'è se tu ti racchiudi a mangiare in tante persone a mezzogiorno in un ristorante dove le distanze, la cubatura dei locali è quello che è. Il rischio c'è se tu vai sulla metropolitana che da adesso fino a fine corsa non viene più sanificata. Ma nella tua chiesa, dopo ogni messa, ci sono volontari che la sanificano. C'è una cubatura altissima in cui tu puoi respirare. Ci sono foglietti che vengono eliminati dopo che li hai usati tu. Portalo a casa. Prendi in mano un abiro, sottolinea queste parole che io semplicemente ti leggo, impossibilitato come sono a spiegartele per bene. Se avete il foglietto, vi invito a prendere il prefazio di oggi. Coraggio, prendetelo. A scuola l'insegnante, quando ti dice di prendere il testo, tu lo fai, vero? È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, qui in chiesa, ma anche in ogni altro luogo, a te che sei il mio Signore, sei il mio Padre Santo, sei Dio onnipotente ed eterno. Dopo questa ouverture comincia il brano, che è straordinario. Oggi stiamo sempre parlando a Dio, Oggi ci dai la gioia di contemplare la città del cielo, la Santa Gerusalemme, che è nostra madre, dove la moltitudine festosa dei nostri fratelli, quelli che sono andati avanti, glorifica per sempre il tuo nome. Verso questa patria comune, anche noi che per il momento siamo pellegrini sulla terra, affrettiamo nella speranza il nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa di questi membri eletti dalla Chiesa, che sono i nostri genitori, i nostri parenti, i nostri fratelli già arrivati, che ci hai dato come amici e come modelli di vita. Per questa generosità del tuo amore, uniti all'immensa schiera degli angeli e dei santi, cantiamo con esultanza la tua lode. E se abbiamo davanti un dipinto straordinario, ci scappa detto alla Madonna: come sei bella. E al tuo parente che è su in cima a quelle montagne che sono il tuo ideale anche della vita, dici: ma che bello stare lì.